Attività 3. Ehi ragazza, sei nuova? Come ti chiami? Alexandra Leano. Qual è la tua classe? Seconda. Seconda G. Vieni con me, ti accompagno.